Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a tutti da Deborah Rosciani a Salva Danaio e buona giornata. La già intricata vicenda che riguarda la compagnia di assicurazioni Fondiaria SAI, insieme a tutta la galassia che fa capo alla famiglia Ligresti, si è fatta ancora più complicata nelle ultime settimane e sembra essere arrivata davvero a momenti decisivi. A segnare un ulteriore sviluppo nel tortuoso percorso che dovrebbe portare alla maxi fusione fra Fonsai, Milano Assicurazioni, Premafin e Unipol, dopo che è stata scartata l'offerta della cordata finanziaria riconducibile a Matteo Arpe, Sator Palladio, è stata la dichiarazione di fallimento di IMCO e Sinergia, le holding dei Ligresti che controllavano complessivamente circa il 20% di Premafin, appunto le ultime puntate. Vicenda fallimentare a cui si ne affianca anche una penale che vede Salvatore Ligresti indagato per aggiotaggio e ostacolo alle autorità di vigilanza. Autorità da cui dipende ora il via libera allo stesso processo di fusione. Via libera che è arrivato però ieri sera sia da parte dell'ISVAP, l'autorità di controllo del settore assicurativo, che da parte dell'antitrust. Ma vicende come queste, già solamente raccontarvela in poche righe è molto complesso. Quali conseguenze portano a tutti i clienti? In questo caso ci sono i titolari di tante polizze fondiarie SAI. Parliamo di un esercito di 8 milioni di assicurati nel nostro paese fra famiglie e aziende. E quali conseguenze per gli azionisti di queste società, visto che in tutti questi mesi in cui si è discusso del futuro e del destino di questa compagnia, i titoli non sono mai stati bloccati in borsa. La Consob ha ritenuto di non farlo e naturalmente mandando sulle montagne russe le azioni che per la verità dall'inizio dell'anno sono molto positive, perché solamente Fondiaria SAI guadagna il 58%. Questa mattina i titoli continuano a correre, per Milano Assicurazioni più 21%, per Premafin più 40%, per cui tutto sommato gli azionisti almeno da gennaio non possono dirsi scontenti. Noi parliamo soprattutto dei piccoli, ma comunque qualche preoccupazione rispetto alle ultime novità ci sono soprattutto per gli assicurati, ma anche per tutti coloro che operano e che lavorano in queste aziende, gli agenti di assicurazioni, i dipendenti. Quindi voi potete capire di che mole e di che cifra stiamo parlando quando ci riferiamo anche appunto ai lavoratori. Allora, noi di tutto questo parliamo questa mattina, abbiamo un bel po' di ospiti. Per tutto il resoconto dell'operazione finanziaria e degli ultimi risvolti giudiziari, Fabio Pavesi del Sole 24 Ore. Fabio, ciao, bentornato. Grazie a voi. Poi ci collegheremo con Claudio De Mozzi, presidente nazionale dello SNA, il sindacato nazionale agenti di assicurazione, perché questa mattina si sono radunati in presidio a Torino. Francesco Paparella sentiremo, poi presidente dell'AIBA, l'Associazione Italiana Brokers di Assicurazione e Riassicurazione, anche questo è un ambito piuttosto preoccupato per quello che sta accadendo, ma direi di andare subito con gli operatori sul campo, non perché le figure che abbiamo appena citato non lo sono, ma ci interessa subito raccogliere la testimonianza di un agente. Parliamo della dottoressa Anna Fasoli, agente appunto titolare dell'agenzia Fasoli e Fontana legata a Milano Assicurazioni nel Veronese, e noi abbiamo deciso di chiamarla e di interpellarla dopo aver letto la sua testimonianza nella newsletter dell'Unione Europea degli assicuratori. Anche lei stessa appunto è socio UEA, per cui ha scritto appunto quello che pensava di tutta questa vicenda, che l'ha preoccupata non poco, anche perché ogni giorno si interfaccia, interagisce con clienti, appunto le famiglie e le imprese, come dicevamo, e deve dare delle giustificazioni rispetto a tutto quello che queste persone leggono sui giornali. Dottoressa Fasoli, buongiorno, benvenuta a Salva Danaio. Buongiorno. Allora, che cosa ci racconta intanto? Ci può spiegare qual è la sua giornata? Cosa racconta ai suoi clienti? Le stanno chiedendo delle spiegazioni? Certamente. Noi sul territorio, noi che siamo il punto di riferimento dei nostri clienti, le domande sono tante. Domande che però sono diverse a seconda del tipo di clientela. Io, se penso al mio esempio, la mia pratica esperienza della mia agenzia, noi lavoriamo con grossi gruppi industriali e lì, insomma, è chiaro che il management è più informato e che quindi si richiede una puntualità, prove di puntualità e solvibilità di un certo tipo da parte della compagnia. In questo momento la gestione assicurativa viene svolta, vengono pagati i sinistri, vengono accolte e gestite le domande. Voi dovete continuare ad incassare i premi? Noi continuiamo a incassare i premi tutto regolarmente, la gestione è puntuale. Diciamo che invece per il cliente singolo della singola polizza, della polizza della casa, della vita, qui le rassicurazioni tecniche servono relativamente. Loro ci chiedono rassicurazioni personali, banalmente ci chiedono se possono dormire tra sonni tranquilli, e qui è fondamentale il rapporto di fiducia che noi riusciamo a trasmettere, è fondamentale questo. E quindi fino a questo momento siete riusciti a rassicurarli, anche perché comunque l'azienda è solida, perché qui davvero abbiamo la sensazione, non la sensazione, poi Fabio Pavesi ce lo racconterà, adesso la lascio concludere, dottoressa, ma abbiamo veramente avuto come due mondi che hanno viaggiato parallelamente, un'attività industriale molto solida, fatta proprio anche del denaro versato continuamente da questa clientela, quindi attività d'impresa che funzionava, e una gestione finanziaria di un'altra parte che invece è stata assolutamente allegra. È proprio il nodo cruciale. Qui la posizione degli azionisti sicuramente è completamente diversa da quella degli assicurati. Il problema di ordine finanziario è complicato e molto intricato, mentre quello assicurativo perlomeno ha una gestione corrente ordinaria. D'altra parte, se guardiamo anche i titoli giornali di ieri, ma soprattutto quelli di oggi, anche l'ISVAP piuttosto che l'antitrust ha emesso ieri un ok subordinato a una chiara e netta distinzione delle funzioni, che io mi auguro che avvenga. Certo, discontinuità radicale con il passato, cosa che peraltro ha chiesto anche il consiglio di amministrazione attuale di Fondiaria. Esatto, questo è sicuramente la discontinuità, infatti ho letto dai giornali che è stata accettata dal consiglio, è stata promossa anche, e quindi ma quello insomma diciamo sono vicende politiche che io non voglio entrarci, quello, la preoccupazione della mia clientela e la preoccupazione dell'intermediario è quello che vorrei esprimere, perché appunto noi che ci dobbiamo essere rassicurati dalla mandante, in questo momento c'è uno scollamento tra la testa e il corpo. Senta, dottoressa Fasoli, lei chiedeva nei mesi passati, nelle settimane passate, rassicurazioni alla società mandante. Le è capitato di mettersi davanti al computer e cominciare magari a scrivere una mail ad altri suoi superiori, poi non so esattamente quale sia la scala gerarchica nel suo caso, e chiedendo appunto delle spiegazioni e rassicurazioni, eppure non lo ha mai fatto per pudore o per altre motivazioni? Ma un'email diretta no, anche perché onestamente non saprei a chi riferirmi e chi sia in grado di darmi delle risposte chiare e concrete. Infatti quello che ho nei miei scritti sottolineato è questa proprio mancanza di dialogo diretto, che è quello che fa scollare chi è preposto a gestire l'attività assicurativa, quindi la testa, e chi la deve svolgere. Questo è quello che ci è mancato, quello che gli intermediari hanno sofferto e che si è tradotto in una dilazione delle risposte di noi agenti, nelle risposte che del management dovremmo avere. Certo, probabilmente ci dovrebbe rassegnare. Esatto, dalle prossime settimane la sua attività dovrà rispondere ad un altro importante attore. Unipol è contenta di come stanno andando le cose, dottoressa Fasoli? Ma io sono contenta che la cosa venga definita, perché è fondamentale dare a questa, proprio che l'assicurazione si basa sulla rassicurazione di una cosa concreta, di una concretezza definita, sono contenta della definizione, ecco, quello che ci fa preoccupare maggiormente è questo non sapere, questo materiale grezzo indefinito. Grazie molte per la sua testimonianza. Ad Anna Fasoli, peraltro, ci sono state delle rassicurazioni da parte di Unipol, che ha già fatto sapere che preserverà prioritariamente i diritti degli assicurati di Fonsai e Milano Assicurazioni, la stabilità degli investimenti finanziari in portafoglio, gli aspetti occupazionali, e in ultimo il gruppo bolognese dice che è opportuno ridare anche fiducia agli azionisti che confidano nella capacità di tornare a creare valore da parte del gruppo assicurativo che fa capo a Premafin. Fabio Pavesi, allora, ieri sera ISVAP e Antitrust hanno dato il via libera all'aggregazione e qui ci siamo, ma la questione che ha più preoccupato per la verità assicurati e anche gli azionisti piccoli o grandi, ma soprattutto gli assicurati, è stata la dichiarazione di fallimento decretata dal Tribunale di Milano fine settimana scorsa, appunto, delle due holding in cima a questa catena piuttosto lunga, IMCO e Sinergia, che insieme controllano il 20%. 20% di Premafin. Ci sono state delle novità negli ultimi giorni, peraltro si era anche vociferato che ci si aspettassero degli arresti nel fine settimana, che non ci sono stati. Vabbè, siamo contenti per la famiglia, ci mancherebbe altro che auspicassimo il contrario, però diciamo che per come si è evoluta la vicenda, così l'avevamo anche immaginato. Detto questo, qual è la situazione oggi? Ma la situazione si evolve giorno per giorno, non possiamo escludere ovviamente nulla, teniamo conto che il reato penale è grave, è bancarotta. E quando c'è una bancarotta, il magistrato va a appurare se c'è stata una distrazione di denaro. E il fatto sorprendente di questo fallimento eccellente, che poi in parte ha sgombrato il campo, non so come dire, cioè la caduta in disgrazia della famiglia Ligresti ha di fatto sgombrato il campo e ha permesso, guarda caso, poi la fusione è andata in porto solo qualche giorno dopo gli arresti. L'inchiesta... Ah, tu dici che questo ha provocato un'accelerazione anche sì, nelle decisioni provocato una forte dei regolatori? Sì, sì, ha provocato un'accelerazione perché i Ligresti erano divenuti francamente ingombranti. Mm. C'è stato un balletto con Unicredito che era il principale finanziatore con Mediobanca, i Ligresti ponevano condizioni, la manleva di Unipol, la Consul è dovuta intervenire più volte, quindi come dire, i Ligresti hanno come dire, tirato la corda molto a lungo e alla fine probabilmente anche le banche che da sempre li sostengono li hanno abbandonati al loro destino, questa è la lettura che noi facciamo e questo ha permesso un'accelerazione. Sulle preoccupazioni, cioè la vicenda va letta su due piani. Allora, il destino della famiglia che per più di 10 anni ha governato su Fonsai, che sarà adesso compito del magistrato appurare, e il destino invece della fondiaria nella nuova Unipol, insomma. È vero, tu dicevi i titoli hanno guadagnato il 20, il 50. Io fondiaria però, più 60 si è una bella soddisfazione, però se io prendo le quotazioni di Unipol i massimi dell'anno erano a 55 euro, oggi siamo a 18. Mentre Fonsai vale non so quanto oggi, ma il massimo era di 4,04 euro. Credo che siamo a un livello forse vicino. Lo cerco subito, guarda. 0,98 ecco. Mi dà. Allora, da 0,98 è 4,4. Cioè, dobbiamo non dimenticare che gli azionisti hanno vissuto veramente una stagione amarissima. È vero, ha centrato la congiuntura, ha centrato la crisi Lehman. Però io do due numeri, insomma, che giustificano anche questa grande operazione, io la chiamo di salvataggio, perché la Fonsai da sola ha perso tra il 2009 e il 2011 2,4 miliardi. Il patrimonio netto, cioè il capitale della Fonsai, è sceso da 5 miliardi e 2 del 2007 a 1 miliardo e mezzo del 2011. La stessa Unipol ha chiuso in rosso per 770 milioni nel 2009, in rosso per 108 milioni nel 2011 e il suo patrimonio netto è sceso da 5,2 a 3,2. Allora noi siamo di fronte a due compagnie che hanno severamente sofferto la crisi. Hanno avuto bisogno di un aumento di capitale, Unipol l'ha fatto. Questa operazione è tutta retta su aumenti di capitale e questo dovrebbe rincuorare i clienti, perché vuol dire che comunque vengono iniettati dei soldi nella compagnia per ricapitalizzarla, quindi per renderla più solida. Ovviamente tra i soci che metteranno i soldi ci sono i soci di controllo, cioè la Unipol, ma ci sono anche gli azionisti di minoranza, che a questo punto devono valutare se aderire alla nuova compagnia. Se dopo compagnia aver già perso praticamente l'80%, perché, magari se lo avevano il titolo ai valori massimi chiaramente, certo, di carico. Noi possiamo però aspettarci che questa reazione di risalita ci sarà ancora, cioè è probabile che i titoli cominciano a muoversi verso l'alto dopo questa fiammata iniziale, quindi un recupero ci sarà, però scordatevi di tornare ai valori di anche solo del 2006-2007 prima della crisi. Oggi a Salvadanaio torniamo a parlare della vicenda fondiaria SAI. Allora, ieri sera l'ISVAP, l'autorità di controllo sul mercato assicurativo e l'antitrust hanno dato il via libera all'aggregazione con Unipol, quindi procedimento industriale prosegue. C'era però stato il risvolto penale che ha fatto molto clamore fine settimana scorso, quando il Tribunale di Milano ha decretato il fallimento di IMCO e Sinergia. So che è tutto molto complesso quello che stiamo raccontando, però purtroppo non riusciamo ad essere più semplici di così. Sono le due holding del gruppo Ligresti a cui faceva capo questa partecipazione del 20% di Premafin, che è la holding finanziaria che a sua volta cascata controlla Fondiaria SAI e Milano Assicurazioni. Fallite perché avevano debiti complessivi per circa 400 milioni di euro. Tanto per spiegare anche Fabio Pavesi, poi andiamo agli altri ospiti. Queste due holding praticamente non è che lavorassero molto, nella sostanza facevano un po' come il salvadanaio, la cassa della liquidità per far fare alla famiglia Ligresti tutte le loro compravendite immobiliari, che era la loro grande passione. Sì, l'ha dimostrato il magistrato, ha detto esplicitamente: Sinergia, che controllava la IMCO, di fatto non lavorava sul mercato, lavorava solo esclusivamente con il gruppo Fondiaria e col gruppo Milano Assicurazioni. Con questa tecnica che è stata chiamata vendita di cosa futura, molto semplice, la IMCO e Sinergia... Molto futura, perché tra tutti gli immobili in ballo nessuno è finito. Esatto, nessuno è... sono falliti con gli immobili ancora da finire, che rimarranno tra l'altro in pancia alla Milano Assicurazioni, quindi con un danno per gli azionisti della Milano, anche questo è un capitolo che la magistratura sta appurando. Ma la cosa divertente era appunto che Fondiaria e Milano cedevano terreni a IMCO e Sinergia, e in Sinergia vendevano contemporaneamente l'immobile ultimato a distanza di 7-8 anni a un prezzo già prestabilito, che valeva ovviamente 3, 4, 5 volte il valore del terreno. E Ligresti guadagnavano i soldi così. Quello che stupisce è che, avendo avuto questi flussi di cassa da Fonsà e Milano, come hanno fatto a accumulare 400 milioni di debiti? Anche perché adesso, per carità, per quanto poi gonfiassero il valore degli immobili, in ogni caso non vendevano neanche i frigoriferi al Polo Nord, era sempre mattone, che magari poteva essere un investimento gestito anche un po' meglio, anche se ci volevi mettere un po' di furberia dentro, qualcosa sì, forse più intelligente si poteva fare. Ma come sempre accade in Italia, poi uno va a vedere i bilanci, nel 2010 tutte le azioni Premafin e in pancia erano di fatto impegno alle banche, cioè la crisi di Ligresti inizia almeno a fine 2009, inizio 2010. Crisi profondissima, perché se uno dà i titoli impegno alle banche perché non ha null'altro da dare come garanzia, a fronte di continui indebitamenti perché evidentemente il gruppo non aveva più liquidità per sostenere. Quindi adesso dobbiamo veramente disgiungere i due destini, quello della famiglia che correrà per la sua strada e quello che attende la nuova compagnia, la grande Unipol, e i suoi azionisti risparmiatori, su cui obiettivamente insomma il futuro dovrebbe essere quantomeno più sereno rispetto al recente passato. Ripeto, in virtù appunto degli aumenti di capitale, perché queste operazioni partiranno chiedendo soldi al mercato necessariamente. Allora andiamo agli altri ospiti, ricordando che gli amici che ci seguono da casa ci possono chiamare all'800 24 0024, scrivere al 349 238 6666, e l'indirizzo salvadanaio@radio24.it, o potete anche andare sul nostro profilo Facebook, e già in molti state commentando proprio lì. Il nostro profilo è salvadanaio-radio24. Francesco Paparelli, la presidente dell'AIBA, l'Associazione Italiana Brokers di Assicurazione e Riassicurazione. Nell'altra puntata che avevamo fatto dedicata a questo argomento lo avevamo lo stesso interpellato. So che lei ha delle perplessità rispetto ai via libera molto condizionati espressi ieri sera da Antitrust ed ISVAP alla fusione tra Unipol e Fonsai. Perché? Buongiorno anzitutto. Buongiorno anche a lei. In realtà il nostro punto di vista, la nostra angolazione è quella dell'intermediario che si preoccupa innanzitutto che il mercato, restringendosi, crei un effetto di minor competitività e minor concorrenza. Questo è il primo aspetto di una fusione così ampia fra Fonsai e Unipol. Ci chiediamo anche se questa fusione, fatta fra due soggetti che abbiamo visto essere comunque in difficoltà finanziaria, è una fusione che li renderà, una volta unificati, forti, in modo tale che non ci ritroviamo fra due o tre anni con una situazione finanziaria aggravata dall'unione di due realtà economicamente non fortissime, almeno in questo momento. Questi sono i due aspetti. L'altro aspetto che noi consideriamo interessante da valutare è lo smantellamento possibile delle reti degli agenti, perché evidentemente noi sappiamo, le compagnie dicono sempre che una delle loro ricchezze fondamentali è la rete. La rete Unipol e la rete Fonsai dovranno essere comunque fuse, e nel fondere, lo sappiamo, ci sarà sicuramente una perdita di numero di sportelli per ovvie ragioni di sinergie economiche, le cosiddette economie di scala che poi vanno. Che alla fine significa, già oggi si vocifera, si parla di 2000 esuberi possibili, non è in un settore come quello assicurativo non si parla quindi di poca cosa. Siamo preoccupati, seriamente preoccupati. Ecco, le stesse preoccupazioni, poi ritorno da lei Paparella, che esprime anche il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione. Questa mattina lo SNA sta presidiando a Torino proprio la sede storica SAI, un presidio di solidarietà, perché secondo lo SNA in realtà a rischio ci sono oltre 3.500 posti di lavoro. Claudio De Mozzi, presidente dello SNA, buongiorno. Buongiorno a voi. Che cosa sta succedendo? Ci racconta cosa succede a Torino? Ma certo, allora innanzitutto saluto tutti i suoi ospiti, in particolare il Presidente Paparella che ha anticipato le nostre preoccupazioni e lo ringrazio per questo spirito solidaristico. E attenzione, noi siamo riuniti soprattutto per attirare l'attenzione dei media che si sono un attimino fatti sfuggire l'aspetto occupazionale per gli agenti di assicurazione e i relativi dipendenti che deriva necessariamente dall'operazione Unipol Fonsai. Se è vero che ieri sera l'antitrust nel provvedimento che ha autorizzato la fusione ha scritto chiaramente nel capitolo cessioni di asset che il gruppo uscito dalla fusione dovrà ridurre con cessioni i marchi, i portafogli assicurativi e i rapporti di agenzia per non superare il livello del 30% a livello nazionale e provinciale. Ha parlato espressamente di rapporti di agenzia, trattati in questo ambito come fossero una qualunque merce, una qualunque fondo di magazzino da dover dismettere per non appesantire troppo le giacenze. Quindi nella sostanza le autorità chiedono revoche di mandati alle agenzie? Allora guardi, io non è detto esplicitamente, ecco, ma lei pensa che possa essere questo? Ha chiesto espressamente ad Unipol, ma anche a Fonsai a Milano, di smentire le voci che parlano insistentemente ormai da settimane dell'esistenza di un dossier che già prevede centinaia di chiusure forzate delle agenzie su tutto il territorio nazionale. La risposta di Unipol, deludente per il sindacato nazionale agenti, è stata semplicemente dilatoria e di un rinvio ad eventuale fusione avvenuta di ogni eventuale confronto, che tra l'altro Unipol anticipa di non voler sostenere direttamente con il sindacato nazionale agenti. Anche questo, se mi permette due secondi, io mi preoccupa il fatto che un grande gruppo assicurativo, diciamo di quella ispirazione, di quella matrice, non consideri prioritario il coinvolgimento del sindacato, cioè della rappresentanza collettiva degli agenti di assicurazione, nella presentazione del proprio piano industriale. Anche perché siete voi che onestamente avete creato questo parco clienti di 8 milioni, ripeto, che ancora di assicurazione, ecco, della compagnia. Che infatti chi acquisisce il gruppo porta a casa, per cui il mancato coinvolgimento ci preoccupa non poco, ma ancora di più il fatto che ci venga scritto con una lettera che il coinvolgimento del sindacato non sarà una priorità del nuovo gruppo che sarà eventualmente creato dalla fusione Unipol Fonsai. Ecco, questo noi lo contestiamo molto vivamente e pensiamo di poter pretendere, quale rappresentanza nazionale degli agenti, o di essere preventivamente informati sull'esistenza o meno di questo piano di chiusura forzata delle agenzie. Benissimo, guardi, sono assolutamente certa, perché li abbiamo sentiti prima, che l'area Unipol ci sta ascoltando questa mattina, per cui sono sicura che la sua sollecitazione sia arrivata direttamente appunto a Bologna. Detto questo, volevo sentire qualche ascoltatore, perché ci sono ancora testimonianze interessanti, poi ritornare a Fabio Pavesi. Cosimo da Pescara, buongiorno. Buongiorno, sono un agente della Fondiera SAI, buongiorno a lei e ai suoi illustri ospiti. Questo è veramente un bel momento per me, perché sto ascoltando delle cose molto interessanti a tutti i livelli. Mi premeva sottolineare che negli ultimi 10-15 anni gli organi di controllo non hanno fatto il loro dovere, no? Mi riferisco in particolare all'ISVAP, perché per poter fare tutto quello che hanno combinato questa famiglia occorrono chiaramente cioè deve essere una distrazione, mettiamolo così, ve la virgolettiamo, altrimenti non si spiega come sia potuto accadere questo disastro. E mi premeva sottolineare inoltre che in un momento storico e politico e economico come questo è il momento davvero di assumersi tutti delle responsabilità. Noi agenti siamo tanti di questo gruppo, ci assumiamo ogni giorno nei confronti dei clienti, della nostra mandante, delle responsabilità inimmaginabili, viviamo sul filo del rasoio e non capisco perché ci sono nomi e cognomi di persone che hanno avallato questo genere di operazioni, nessuno ne parli. Cosimo, grazie. Allora, Fabio Pavesi, gli organi di controllo che non hanno fatto il loro dovere in questi anni, è stata una riflessione molto importante quella dell'ascoltatore di Pescara, d'altronde un agente del gruppo che diceva, insomma, non è che stiamo parlando di una vicenda che ha avuto una deriva negli ultimi 3 mesi che era impossibile da vedere, delle allegre gestioni finanziarie della famiglia Ligresti, ci divertiamo anche dal punto di vista forse vostro sul giornale, su altri giornali da qualche anno. Ma tipico di questo paese, un conflitto di interessi gigantesco ha tenuto gli organi di controllo molto dormienti e l'agente assicurativo ha ragione, cioè voglio dire, uno si chiede l'ISFA dov'era, perché ha battuto un colpo solo di recente, perché i flussi che noi abbiamo documentato sul Sole in uscita da Fonsai Milano verso le holding fallite erano scritte nei bilanci della compagnia. Cioè io quei dati, io e il collega Mincuzzi abbiamo lavorato, quei dati li abbiamo trovati nei bilanci, in documenti pubblici. E così come li ho visti io, insomma l'ISVA dovrebbe vederli, non so, mesi prima, dovrebbe farci attenzione. Se voi andate a vedere i bilanci scoprirete che i rapporti con le parti correlate, che è appunto il rapporto tra la famiglia azionista e la società, hanno solo nel bilancio ultimo, nel 2011, un grande rilievo e il dettaglio che merita, ma nei bilanci prima non c'era niente, non c'erano dettagli, e quindi evidentemente l'ISVAP ha premuto in passato perché facessero maggior chiarezza, però a un certo punto andavano anche sanzionati, cioè questi sono comportamenti, e allora uno si chiede cosa fanno le autorità di controllo. Beh, insomma, in questo caso hanno dormito, questo è un dato di fatto, perché la situazione si è talmente incancrenita e meritava un intervento assai prima, insomma, su questo non c'è dubbio. Sono anche società quotate quelle delle quali stiamo parlando, per cui appunto, anche il cospetto del mercato, gli analisti finanziari, gli investitori, le società problema, hanno incontri periodici con la comunità finanziaria. Il problema appunto è quello che finché i Ligresti nelle loro società personali possono anche fallire, è un problema loro, ma quando tu intacchi una società quotata hai degli interessi degli azionisti di minoranza che non stai tutelando. E poi ricordiamo l'altro grande conflitto di interessi, beh, insomma la famiglia Ligresti stava nel CDA di Mediobanca. Ionella Ligresti si è dimessa solo dopo la dichiarazione due, di fallimento del due tribunale. Giorni fa dal CDA di Mediobanca, e Mediobanca ha finanziato con prestiti subordinati dal 2003 in poi la fondiaria per 1 miliardo e 50 milioni, che equivale al 16% di tutto il patrimonio di vigilanza di Mediobanca. Quindi c'è un'esposizione fortissima di Mediobanca verso la fondiaria SAI e quindi verso i Ligresti, così come Unicredito. Allora, le banche hanno finanziato allegramente i Ligresti, l'hanno fatto anche quando le condizioni ti imponevano probabilmente di dare un taglio, e questo non ha fatto che esacerbare la situazione. Quindi ci sono molti piani di lettura di questa vicenda, tra cui anche la responsabilità delle banche. Allora andiamo a Massimo da Alba per l'ultima testimonianza di un ascoltatore che rappresenta tutti quelli che vorrebbero chiamarci questa mattina, che hanno la medesima questione da porci. Massimo, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie Massimo. Allora, la mia questione è molto semplice. Io ho stipulato delle polizze vita col gruppo Milano, per i miei figli e per i miei nipoti, ho fatto degli accantonamenti, sono 4-5 polizze in tutto, più il mio fondo pensione l'ho fatto con il gruppo, e adesso sono preoccupato di capire i rendimenti, già non sono altissimi, ma delle polizze quelli non è colpa dei Ligresti, non è colpa di nessuno, lo per capiamo. Allora Massimo, certo, le rispondiamo senz'altro, così come rispondo anche per esempio l'ascoltatore che ci ha scritto: l'auto assicurata con fondiaria, sai cosa succede? Allora quelli intanto sono soldi vostri, nel senso che comunque in genere su questi prodotti di investimento hanno il cosiddetto patrimonio separato, per cui non dovrebbe, tutto questo non ha a che fare con le vicende della famiglia Ligresti, tant'è vero che anche l'amministratore delegato Erbetta di Fondiaria SAI si è completamente dissociato dall'operato dei suoi ex proprietari praticamente, e ha detto che andrà avanti in una azione di totale discontinuità appunto con la governance precedente. Detto questo, le preoccupazioni vostre sono legittime, perché comunque se da un giorno all'altro non si dovesse più trovare un interlocutore con il quale parlare, è chiaro che queste persone sono preoccupate. Paparella, che cosa possiamo rispondere a queste persone? Immagino che anche i vostri broker avranno a che fare con le medesime considerazioni ogni giorno. Assolutamente sì, ma il problema è proprio quello, per riallacciarmi anche a quello che si diceva poc'anzi in merito al far fallire o non far fallire. E non voglio certamente difendere io l'operato dell'ISVAP, perché non è mio compito e francamente non mi sento neanche di difenderlo. Voglio però dire che quando noi andiamo a toccare un gruppo assicurativo, noi stiamo toccando 8 milioni di persone che hanno dato del denaro per avere la certezza di avere un risarcimento, sapranno mai. Qui non si tratta quindi di una fabbrica di frigoriferi che ha deciso di venderli agli eschimesi e fallisce perché ovviamente l'eschimese non glielo compra. Qui si tratta di eventualmente si poteva far fallire un gruppo assicurativo che avrebbe lasciato impegni assunti con centinaia di migliaia, con milioni di persone, disattesi, e questo non è possibile farlo, non era corretto farlo. Io mi permetto semplicemente di dire che forse proprio perché questo viene da lontano, questo sistema, questa negatività del gruppo, forse andava commissariato 2 anni fa. Dirlo oggi è facile. Io sono fermamente convinto che se 2 anni fa fosse stato commissariato, nell'arco di 1 mese arrivava Xas, lo comprava e finiva tutto il problema. Non è stato voluto questo, non è stato voluto perché ci avrebbero rimesso le banche che avevano finanziato, e ci avrebbe AXA avrebbe preso una posizione fortissima nel mercato italiano, cosa che ad altri assicuratori italiani, uno fra tutti, non faceva piacere. Questo è il problema. Per quanto riguarda gli assicurati, credo di poterli tranquillizzare in modo assoluto, sia per le polizze vita, che come sappiamo vengono gestite in conti separati e controllati, e anche per le polizze auto o qualunque altro tipo di contratto. E quindi non c'è il rischio di default da un punto di vista della prestazione. Ecco, no, tra l'altro sono assolutamente sicura che soprattutto per quelle polizze auto che adesso vanno a scadenza, la gente potrà continuare a venire in casa vostra a rinnovare questi impegni, anzi sarà molto felice di farlo. Allora, in ogni caso monitoreremo la situazione, ci ritorneremo chiaramente se solo dovessimo avere la sensazione che qualcosa possa andare storto, rispetto soprattutto all'aggregazione a questo punto con Unipol. Grazie a tutti per essere stati con noi. Io adesso devo andare, Fabio. Per adesso diciamo terminiamo così, poi magari ci ritorniamo perché adesso se approfondiamo un altro argomento vado fuori tempo massimo. Andiamo al tema che ci occupiamo, di cui ci occupiamo tutti i giorni invece con l'INPS, la riforma delle pensioni. Oggi continuiamo a parlare delle regole valide per quelli che vengono definiti lavori usuranti, come fare per ottenere l'anticipo della pensione in questi casi. Pensioni, le novità della riforma, in collaborazione con INPS. Se si ritiene di aver svolto un'attività usurante, che cosa bisogna fare per ottenere l'anticipo della pensione previsto per questa ipotesi? I lavoratori che hanno svolto o svolgono attività usuranti devono innanzitutto presentare una specifica istanza al proprio ente previdenziale per farsi riconoscere il periodo svolto come lavoro usurante. L'istanza va presentata entro il 1 marzo dell'anno di maturazione dei requisiti. Una volta che l'ente ha dato il via libera e ha fissato la decorrenza della prestazione, i lavoratori presentano la domanda di pensione vera e propria. Allora, Salvadanaio dedicato alla vicenda Fondiaria Sai è terminato, non è certo terminata la vicenda Fondiaria Sai, continueremo appunto come vi ho promesso a monitorarla, magari raccogliendo possibilmente più avanti ulteriori posizioni in campo perché sono tanti. Quindi grazie a Fabio Pavesi, Francesco Paparella, Claudio De Mozzi per essere stati con noi, noi naturalmente ci risentiamo domani come sempre alle 12.15. Da Deborah Rosciani a tutti, buona giornata.